sigla mulilanga. Tuna sile zezna lali. Namu wapi sama polisa namaso. Asnandava abangante. Asnandava payasa silali. Sola, Alexa, Sola, Alexa.